saltimputinati. Oh, bella pigger. Ma guarda, ci verrei stravolentieri a saltare, solo che a parte che mi sono fatto male. E poi non c'è da fare il jingle per il mixtape di Sana Incoscienza. Già, c'è tutta la Desolandia che aspetta. Ma lo speech, te come sei messo? Ce l'hai tutto pronto? Ma lo speech è un casino, perché sono passati un sacco di anni, quindi ci sarebbero un sacco di persone da big appare. Io pensavo una roba del tipo come quando si era in Giarina, il tempo sul Po, era una cosa del tipo: a tutti i massicci e le massicce di Ferrara, a tutti quelli che sono nati e cresciuti sulle rive del grande fiume, a tutti quelli che hanno la vera e sana incoscienza. E un big up chiaramente a Cray, a tutta la crew. Partiamo da Giarina Sound, passiamo per Pirate Production, andiamo Italian Dance sul Queen, insomma andiamo a tutti quelli che supportano Sana Incoscienza, Mix